giudizi, eccetera, eccetera, la questione di provare a ragionare sul welfare non familista, in realtà secondo me è una questione centrale, proprio perché secondo me negli anni il movimento LGBT si è molto schiacciato sulla richiesta di diritti, riproducendo e ricreando uno schiacciamento su un sistema di valori e di organizzazione familista. E quindi nella misura in cui la società, l'abbiamo detto, no? La famiglia è stata sempre il braccio, la gamba destra dello Stato, eccetera, in una costruzione di società in cui la famiglia è centrale, secondo me il movimento LGBT negli anni si è schiacciato molto sul fatto che l'unico modo per richiedere dei diritti era il riconoscimento della famiglia. Famiglia tendenzialmente con un immaginario assolutamente normalizzante, omologante, e che quindi riproponeva in qualche modo un modello, direi, veramente poco destrutturante, poco rivoluzionario e poco utile anche alla, secondo me, all'andare avanti della possibilità di esprimersi, di costruire effettivamente nuove forme di relazione, affettività, nuclei d'affetto, perché non è che il problema è abbattere tout court tutti quelli che vogliono, diciamo, ricreare nuclei d'affetti, ok? Cioè non è la battaglia contro la famiglia, nel senso, contro la famiglia sì, ma contro la famiglia patriarcale, è riuscito da stamattina, no? Cioè nel senso, abbiamo ritirato fuori dei termini da stamattina che secondo me non solo sono assolutamente attuali e centrali nella nostra analisi, ma sono dei termini che secondo me, nella misura in cui siamo in grado di abbattere e di costruire, siamo in grado di riaprire degli orizzonti e delle prospettive che ci permettono di avere anche dei nuovi linguaggi, per cui l'idea è svincolarsi dalle politiche familiste per creare nuove possibilità di diritto, perché è di diritto che si parla, di diritto di conflitto e quindi di percorso di liberazione che passa inevitabilmente attraverso la richiesta di diritti concreti e reali, di riconoscimenti e di possibilità di, però nella misura in cui sono in grado di capire che non è al sistema di riferimento in cui mi trovo che mi voglio in qualche modo omologare o normalizzare, voglio un'altra roba, per cui in qualche modo l'avanzamento che si provava a ragionare anche con, partendo da, c'è la crisi, il welfare non c'era prima in realtà, nel senso, in più tutto quel poco che c'era con l'egemonia culturale per cui il pubblico è un disastro, ed è vero, ma non solo sulla scuola, regalo, nel senso che l'egemonia culturale è su tutto, stanno smantellando tutto, in più con un consenso medio abbastanza diffuso per cui il pubblico tanto non ha mai funzionato, chi stava dentro tendenzialmente era ladro, svogliato e non ha fatto mai niente in 30 anni, perché il pubblico non è mai esistito, perché eccetera eccetera eccetera, per cui in realtà io sono, cioè nel senso, alcuni elementi che sono usciti secondo me sono abbastanza importanti, tra cui anche il rivendicare e ripartire anche proprio dalla rivendicazione del fatto che invece io voglio un pubblico, voglio un sociale, voglio una collettività, voglio riconoscimento, perché il diritto del singolo non è abbattere, cioè nel senso fare una politica individualista, anzi è esattamente il contrario, è riuscire a dare il diritto al singolo perché sia in grado e abbia gli strumenti, la capacità e la possibilità materiale di ricostruire attraverso le relazioni e quindi la ricreazione del senso comune di collettività, di soggetto, di noi, ok, che sia, che possa tendenzialmente costruire nuove prospettive, e stiamo ancora indietro, cioè nel senso, esattamente quali sono queste nuove prospettive, sono da costruire, per cui recuperiamo questo livello provando a smontare bene quello che non funziona e aprendo degli spazi di rielaborazione. Filippa, Cesare. Io parto da un'esperienza.